Focus Economia. Buonasera, siamo a Focus Economia, io sono Enrico Brivio, sono le 17.05. Vi farò compagnia questa settimana raccogliendo il testimone da Sebastiano Barisoni e Deborah Rosciani. Vi ricordo il numero per i vostri sms, 349-238-6666. Oggi parleremo di una situazione di mercato piuttosto tranquilla, con lo spread che è sceso sotto quota 250, quindi una situazione molto diversa, con un differenziale tra i BTP italiani e i Bund tedeschi ben lontano da quello di due anni fa, quindi un'estate molto meno rovente, diciamo, e andremo ad analizzare un po' la situazione, con una però situazione greca che rimane problematica, e anche qui andremo a vedere, ci sono voci di nuovi pacchetti di salvataggio per Atene e cercheremo di analizzare quali sono le implicazioni di un eventuale ulteriore salvataggio di Atene, e poi approfondiremo anche altre situazioni, in particolare la questione delle pensioni d'oro, le gestioni che rischiano di affondare l'INPS, cioè pensioni pubbliche dei dirigenti d'azienda, che hanno un peso notevole sul futuro dell'ente previdenziale italiano. E queste sono un po' le situazioni, una situazione di borsa che è stata piuttosto esitante e in calo in apertura a causa della delusione per un dato giapponese inferiore alle previsioni di crescita, cioè lo 0,6% rispetto allo 0,9% che ci si attendeva, ma poi hanno ripreso a salire anche grazie all'andamento positivo di un'asta italiana, e anche di quello parleremo. Ma partiamo ora con le notizie in breve. Oro in rialzo a 1.333,94 dollari in Asia e sui mercati asiatici, dove il mercato prezioso ha guadagnato l'1,5% l'oncia, il livello più alto dal 31 luglio scorso. Mentre il petrolio è calato a New York a 105,41 dollari, quotazioni in calo dello 0,47%. E come vi dicevo, la crescita economica giapponese, che era stato uno degli elementi che avevano dato segnali di una schiarita a livello mondiale, e purtroppo è stata un po' meno decisa di quanto si sperasse. Tra aprile e giugno ha segnato un più 0,6% contro lo 0,9% del trimestre precedente, che era un tasso più basso rispetto anche alle attese degli analisti, che credevano si continuasse sulla rotta dello 0,9%, e questo, come dicevo, ha determinato un indebolimento delle borse europee in mattinata, anche comunque in una situazione di scambi molto ridotti. Il dato giapponese è stato importante anche perché è uscito un dato riportato dal Wall Street Journal, dalla Bridgewater Associates, che indica come le economie avanzate tornino a trainare la crescita globale, ovvero da quando è scoppiata la crisi erano soprattutto le economie in via di sviluppo a trainare il mondo. Invece, negli ultimi tempi sono tornate proprio il Giappone e gli Stati Uniti ad avere un ruolo trainante, anche la Germania, e proprio per questo il dato giapponese ha creato un po' di malumori sui mercati. In Brasile invece continuano al ribasso le previsioni di crescita per l'economia brasiliana e rientra in questo quadro, dicevamo, di economie emergenti che rallentano un po' il passo. E secondo le stime dei principali analisti finanziari, le prospettive per quest'anno sono calate dal 2,24 al 2,21 attuale, insomma. Ecco, invece chi continua a vedersela piuttosto male, ma poi approfondiremo questo, questo fatto, è la Grecia. La Grecia, perché ha visto nel secondo trimestre del 2013 il PIL diminuire del 4,6% rispetto all'anno prima. Si tratta del 20° trimestre, pensate, 20 trimestri consecutivi di calo, veramente una crisi nera, anche se unico elemento di parziale conforto il fatto che comunque il dato sia migliore delle attese degli analisti, che temevano un calo del 5%. E poi la crisi si è fatta sentire negli ultimi anni anche nel sistema bancario. Pensate che nel 2012 sono stati tagliati 5.500 sportelli bancari nell'Unione Europea, lasciando il vecchio continente comunque con 20.000 sportelli in meno rispetto all'inizio della crisi. È quanto emerge da un'analisi che ha svolto l'agenzia Reuters sui dati della Banca Centrale Europea. Quindi le banche europee chiudono gli sportelli nel tentativo di ridurre costi operativi e migliorare gli utili. E passiamo ora al fronte italiano. C'è stato un annuncio del primo ministro Letta che ha annunciato l'intenzione di ridurre del 25% le auto blu. È stata decisa un'ulteriore riduzione del 25% delle macchine di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha annunciato il premier Letta. Inoltre vi saranno voli di Stato più che dimezzati e vendita di 3 dei 10 aerei della flotta della Presidenza del Consiglio. Queste misure sono state annunciate dal premier Letta, che prevede un risparmio di circa 50 milioni con la riduzione di questi aerei, che verranno invece assegnati alla protezione civile per rendere più forte il contrasto agli incendi con elicotteri e Canadair. Quindi una misura indubbiamente di riduzione dei costi dello Stato, anche se bisogna vedere fino a che punto inciderà nei conti pubblici italiani. Ma sentiamo che cosa ha detto il primo ministro Letta. La decisione importante di oggi è quella del taglio dei voli di Stato, della vendita di 3 dei 10 aerei della flotta di Stato e dell'utilizzo di quelle risorse per rendere più operativa e rafforzare invece la flotta antincendio, che, ripeto, era stata pesantemente tagliata nelle ultime leggi finanziarie. Vogliamo dare ovviamente un'indicazione di un'ulteriore scelta verso la riduzione dei costi, i tagli dei costi e una maggiore efficienza e una riduzione dei privilegi. Questo è un passaggio che è una tappa verso una maggiore operatività della struttura che abbiamo a disposizione. Io credo che fatto questo passo si possa sicuramente fare di più a livello complessivo di governo. Come sapete, il Ministero della funzione pubblica, la pubblica amministrazione sta lavorando per rendere delle regole ancora. Questa è una scelta autonoma della Presidenza che riguarda l'operatività della Presidenza. Credo che sia una scelta così può funzionare. Vediamo quali saranno i passi poi successivi. queste le misure annunciate oggi. Ricordo anche che per quanto riguarda invece il decreto del fare, in edicola con il Sole 24 Ore domani troverete un inserto che illustra tutte le misure che riguardano le famiglie, dagli sconti del 30% sulle multe stradali pagate subito, alla possibilità di collegarsi a internet con il wifi da un esercizio pubblico, fino a varie semplificazioni di rilievo per chi effettua lavori in casa. Il decreto del fare, appena convertito in legge, quindi in un supplemento, in un inserto che troverete domani sul Sole 24 Ore. Il primo ministro Letta poi ha confermato che entro il 31 agosto si troverà una soluzione per l'annosa questione dell'IMU. Dice troveremo una soluzione entro il 31 agosto. Sentiamo cosa ha detto esattamente il Presidente del Consiglio. Ripeto quello che ho sempre detto, entro il 31 agosto, punto. Beh, perentorio direi, molto asciutto nella sua dichiarazione di intenti. E poi ricordiamo anche che il ministro della pubblica amministrazione Giampiero D'Alia, Sky TG24, ha ricordato che sull'IMU c'è un accordo politico fatto in sede di nascita del governo che quindi andrà rispettato. E poi c'è da sfoltire la macchina della pubblica amministrazione, quindi stop agli stipendi e si parla stop agli stipendi diciamo più ricchi una semplificazione della macchina amministrativa. Secondo quanto ha scritto il Messaggero, i tecnici del Ministero del Lavoro insieme a quelli del Tesoro e della funzione pubblica stanno facendo scattare un piano con un taglio incisivo che, qualora andasse in porto, andrebbe a incidere profondamente su una platea di oltre 3 milioni di quadri, operai e impiegati, il tutto senza licenziamenti ma attraverso esodi per i dipendenti over 57. Vedremo se queste indiscrezioni saranno confermate. Comunque il ministro del Lavoro Enrico Giovannini ha già avviato informalmente i primi sondaggi con le organizzazioni sindacali. Poi sul fronte finanziario e delle inchieste, ahimè, finanziarie, ha tenuto banco di nuovo il caso Ligresti con la Guardia di Finanza che ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 250 milioni di euro riferibili alla famiglia Ligresti. Sono stati sequestrati hotel come il Principe di Piemonte di Torino, il Naxos Beach di Taormina, il Grand Hotel Fiera Milano e il Golf Hotel Campiglio. Gli inquirenti hanno fatto presente soprattutto che ATA Hotel era una scatola piena di debiti prospettici, in gran parte dei quali verso lo stesso gruppo Fonsai. Vedremo come l'inchiesta procederà. E poi una buona notizia: con Fincantieri, maxi ordini da 1,1 miliardi per 4 navi. Fincantieri, attraverso la propria controllata norvegese Vard, si è aggiudicata un ordine dalla joint venture Subea Technip per la realizzazione di 4 navi posatubi offshore. Il contratto ha un valore complessivo di 1,1 miliardi di dollari ed è il più importante acquisito finora da Vard e uno dei più importanti in assoluto. Insomma, una buona notizia per un'azienda italiana che ha ottenuto una commessa importante, così come Impregilo, ricordiamo, ha ottenuto una commessa da 963 milioni per un'autostrada in Libia, la Salina Impregilo, che organizzerà con un consorzio di imprese italiane che comprende anche Condotte, Pizzarotti e CMC. Ma ora torniamo a parlare ospite qui con me Moria Longo del Sole 24 Ore, analista dei mercati che conosce bene la situazione, quello che sta succedendo sui mercati, e con lui vorrei soprattutto approfondire il fatto che lo spread tra BTP e Bund tedesco sia sceso a 247 punti base, sotto una soglia psicologica di 250, segnando i minimi da 2 anni a questa parte. Ecco, c'è un'atmosfera completamente diversa rispetto a 2 anni fa. Perché? Sì, c'è un'atmosfera completamente diversa, però le tensioni politiche in realtà ci sono, i mercati non le percepiscono, non le respirano. I motivi in realtà per cui lo spread, che è un po' questo termometro del rischio Italia e della salute dell'Italia sui mercati finanziari, è così basso, quindi segna febbre bassa, quindi anzi quasi non più febbre. I motivi per cui è così basso sono molteplici. Il primo è sicuramente legato al fatto che le banche centrali di tutto il mondo negli ultimi 2 anni hanno pompato tanta liquidità, soprattutto la Banca Centrale Europea continua a dire che i tassi resteranno bassi, che resterà molto accomodante, che quindi sarà d'aiuto ai mercati. Questo ha dato grande spinta ai mercati finanziari, ha indotto gli investitori a cercare di comprare titoli più rischiosi, quindi non, se un tempo compravano i titoli sicuri che rendevano poco quando c'era la crisi più pesante, adesso iniziano a comprare titoli un po' più rischiosi per aumentare il loro rendimento. È il motivo per cui le azioni salgono, per esempio Wall Street è sui massimi storici, è il motivo per cui titoli come quelli italiani e spagnoli stanno scendendo i rendimenti, quindi segnale che vengono acquistati. Il secondo motivo è che in questo contesto di politiche monetarie molto accomodanti, quindi molto di iniezioni di grande liquidità, l'economia sta effettivamente migliorando. È uscito oggi un sondaggio su Bloomberg che dice che secondo gli analisti i dati sul PIL europeo che usciranno 14 agosto, quindi tra 2 giorni, indicano che per la prima volta dopo sei semestri in calo il PIL europeo dovrebbe segnare nel trimestre un +0,2%, quindi un piccolo balzettino in avanti che chiude una recessione, la recessione più lunga dell'area euro da quando esiste l'euro. Questo è anche questo positivo, fa sperare che l'economia si riprenda. Dicevi tu prima, no, che adesso l'economia è trainata più dai paesi industrializzati che da quelli in via di sviluppo. Questo fa sperare che l'economia si riprenda, e quindi in un'ottica di economia che si riprende gli investitori possono comprare un po' più di titoli rischiosi e meno Bund, per esempio, che sono i titoli porto sicuro. Diventa stupido ormai, quasi inutile comprare un Bund che rende pochissimo sotto l'inflazione in un momento di espansione economica quando ancora le politiche monetarie sono molto espansive. Quindi diciamo la combinazione tra politiche monetarie espansive e un'economia che segnala che dà i primi segnali di ripresa inducono gli investitori ad azzardare un po' di più, quindi a comprare titoli che magari nei momenti più burrascosi della crisi non compravano. Tra questi ci sono anche quelli italiani. Per di più il mercato è convinto che il governo Letta terrà, che la sentenza della Cassazione sul caso Mediaset non porterà contraccolpi sul governo, quindi sulla tenuta del governo, quindi che l'Italia continuerà pur faticosamente, pur con tutti i suoi le difficoltà di sempre, però continuare la politica del risanamento e speriamo anche della crescita, e quindi questo lascia ben sperare, e questa voglia di rischio prevale tra gli investitori, quindi comprano titoli italiani ma anche spagnoli. Quindi, e di altro questo tipo. Ha contribuito anche oggi al fatto che il Tesoro abbia venduto tutti i 7,5 miliardi di euro di bot a un anno con rendimenti in lieve calo, mi pare sia sceso all'1,053% rispetto all'1,078% di luglio. Sì, assolutamente, i rendimenti dei bot annuali sono ai minimi, sono tornati ai minimi da giugno, non tantissimo tempo fa, comunque sono decisamente bassi, il motivo è sempre questo. Tra l'altro c'è anche un altro fattore più tecnico che però è buono per i nostri titoli di Stato, cioè il fatto che ormai il Tesoro nel 2013 ha esaurito più circa l'80% delle emissioni che doveva fare nell'intero 2013, quindi ci resta un 20% da fare da qui a dicembre, e questo toglie pressione perché ovviamente il Tesoro ha meno bisogno di chiedere al mercato soldi e quindi il mercato è un po' più rilassato su questo fronte. Ecco, però mi pare che un fattore che rimane fondamentale nel dare tono positivo ai mercati è l'iniezione di liquidità da parte delle banche centrali, come giustamente detto. Ora, sembra quasi però quindi che i mercati vogliono che preferiscano che le economie vadano discretamente bene, le economie dei paesi avanzati, ma non troppo bene, così da provocare un'altra stretta della liquidità. Questa mi sembra un po' un sentiero stretto, o mi sbaglio? Esattamente, diciamo che i mercati vogliono la botte piena e la moglie ubriaca insieme, sostanzialmente sì. Questa loro vogliono sicuramente che l'economia si riprenda, perché una recessione dopo troppi anni diventa distruttiva. Però se si riprendesse troppo le banche centrali ridurrebbero la liquidità che hanno iniettato. Pensate che dal 2007 ad oggi le banche centrali hanno iniettato a livello mondiale 22.000 miliardi di dollari di liquidità in più sul mercato. Quindi sono tantissimi soldi che sono rimasti quasi tutti sui mercati finanziari, sono stati usati per la speculazione, per comprare, per vendere, per fare giochi speculativi. Purtroppo sono andati poco nell'economia reale. Quindi ai mercati piace che le banche centrali continuino, io la chiamo sempre la droga monetaria, il doping monetario, che le banche centrali buttino questa è un po' come buttare, non so, il pane agli uccellini al parco. Ecco, per il mercato la liquidità che le banche centrali stanno gettando è importante, ed è per questo che sono terrorizzati dal fatto che la Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, potrebbe a settembre ridurre le iniezioni di liquidità. Però il fatto che l'economia migliora, ma non troppo, li lascia sperare di poter avere almeno per un po' di tempo sia la botte piena sia la moglie ubriaca. Quindi per questo i mercati sono così euforici adesso. Però il fatto che Wall Street, grazie anche a queste iniezioni di liquidità, sia tornata ai livelli massimi, non comincia anche a far pensare alla possibilità di una correzione al ribasso, cioè di una nuova bolla? Sì, assolutamente. Pensare a Wall Street, le quotazioni sono, secondo molti analisti, sono un po' troppo tirate, un po' eccessive. Un po' perché l'economia è vero che si sta riprendendo, ma non così tanto da giustificare una borsa ai massimi storici, primo. Secondo, perché l'altro elemento che trae nella borsa sono gli utili aziendali, i risultati delle aziende. Le aziende stanno facendo utili, però se si va a vedere sono utili ottenuti in gran parte con la riduzione dei costi, cioè il costo del personale. Tant'è vero che è curioso il fatto di notare, mentre le aziende fanno utili e le borsette ai massimi, in America la povertà è più o meno ai massimi dal dopoguerra e i salari sono quello che nel 1968 era considerato salario minimo. Ora, considerando il tasso di inflazione, il 40% della popolazione guadagna meno di quello che nel 68 era considerato salario minimo allora. Questo significa che le imprese stanno sì facendo utili, ma non tanto aumentando i fatturati quanto riducendo i costi. Il problema è che ridurre i costi oltre un certo punto non è più possibile, quindi o l'economia riprende veramente e i fatturati aumentano, oppure gli utili saranno difficili da mantenere. Per di più, considerate che attualmente le quotazioni a Wall Street sono circa 15,5 volte superiori agli utili attesi per il 2013, che è un livello molto alto, quindi una correzione è secondo molti possibile, a meno che l'economia non aumenti in maniera vertiginosa e i fatturati delle aziende aumentino, allora cambia un po' tutto. Però allo stato attuale è difficile da vedere, almeno nel breve periodo, nei prossimi mesi. E per l'Europa come vedi la direzione che sta prendendo la Banca Centrale Europea? Pensi che si rimarrà su questa linea anche verso l'autunno o ci sono dei cambiamenti di rotta prevedibili? Ma la Banca Centrale Europea per ora sta facendo tante chiacchiere, diciamo, tanti annunci, sta sostenendo il mercato con questi annunci. Per fortuna la Banca Centrale Europea e anche la persona di Mario Draghi sono molto credibili, quindi i mercati si fidano di quello che dice lui, perché quando dice la politica resterà accomodante per un lungo tempo ci credono, e quindi per questo che i mercati sono in questo momento euforici. Detto questo, nell'ultimo, oltre a un anno fa, quando la Banca Centrale Europea creò il suo scudo antispread, di fatto non ha più fatto nulla di particolare. Adesso gli analisti si attendono o che faccia qualcosa per favorire il credito alle piccole e medie imprese. Draghi l'ha detto più volte che vorrebbe per esempio far ripartire il mercato delle cartolarizzazioni con magari garanzie della BEI, della Banca Europea degli Investimenti, però non si capisce bene cosa abbia in testa e cosa possa fare. Beh, poi lui si muove in un mandato molto stretto. Oppure il mercato, ci sono alcuni analisti e economisti che iniziano a pensare che possa fare una nuova iniezione di liquidità. Questi prestiti a lungo termine che ha già fatto qualche anno fa potrebbe rifarli alle ripestare denaro alle banche a medio e lungo termine. Per cui gli analisti si aspettano qualcosa, ci si aspetta forse un po' meno adesso un taglio dei tassi, anche perché in alcuni paesi l'inflazione non è così bassa da giustificare un taglio dei tassi, e poi sarebbe anche abbastanza inefficace, però comunque tutti si aspettano qualcosa. La cosa divertente sui mercati è che tutti si aspettano, è un po' come Godot, è sempre in attesa, tutti lo attendono, e non si sa bene quando arriverà e se arriverà. Si aspettano che la Federal Reserve comunque resterà espansiva, non ridurrà troppo gli stimoli. Si aspettano che la Banca del Giappone aumenterà la sua iniezione di liquidità in maniera esponenziale, si aspettano che Mario Draghi tiri fuori qualche altro coniglio dal cilindro. Il problema è che poi a un certo punto le armi delle banche centrali finiscono, comunque non sono più tantissime, comunque in un'economia che riprende vediamo cosa accadrà. Però è importante, direi, che insomma quell'abisso che si vedeva 2 anni fa col rischio di disgregazione dell'euro, diciamo che stiamo passando un'estate molto diversa, e questo insomma dobbiamo anche rallegrarcene. Assolutamente, no? Sì, bisogna però non perdere l'occasione, perché un'estate così, un periodo così calmo sui mercati finanziari non lo vediamo purtroppo, anzi per per fortuna, visto che lo abbiamo adesso, da molto tempo. Però è proprio questo il momento in cui bisogna rimboccarsi le maniche e fare le famose riforme strutturali che non si possono fare quando c'è agitazione sui mercati. Per cui questo deve essere un momento in cui ci si rimbocca le maniche, perché sennò la bufera può tornare da un momento all'altro. Benissimo, grazie a Moria Longo, che ci ha aiutato veramente a gettare un po' di luce in una situazione che comunque rimane complicata. Io adesso lascio il campo al meteo e alla pubblicità. Buonasera, questa è Focus Economia, sono le 17.32, io sono Enrico Brivio, vi ricordo anche l'SMS, il numero per i vostri SMS 349-238-6666. E ora andiamo un po' ad analizzare un altro dei nodi dell'economia europea, perché abbiamo appena detto con Moria Longo che il peggio sembra essere passato, ma che bisogna rimboccarsi le maniche. E c'è un paese in particolare che è un po' il nodo di tutto, è là dove la crisi è partita ed è là dove non si è ancora risolta, ovvero la Grecia. E di Grecia si è tornato a parlare perché la banca centrale tedesca, la Bundesbank, ha mandato un avvertimento, secondo quanto scrive il settimanale Der Spiegel, citando i governi europei sicuramente dovranno intervenire di nuovo per salvare la Grecia, cioè con un nuovo programma di aiuti entro i primi mesi del 2014. Ora, questo è stato in parte smentito da portavoci del governo, che hanno detto hanno minimizzato le prospettive di un ulteriore aiuto, ma sappiamo che su questo probabilmente pesa il fatto che il 22 settembre ci sono delle elezioni in Germania e quindi Angela Merkel non ama far presente che la crisi greca non è ancora stata completamente risolta e che vi sono ancora degli interventi da fare. La Bundesbank però nel rapporto definisce l'approvazione lo scorso mese della tranche di aiuti da 5,8 miliardi di euro per la Grecia come politicamente motivata e dice che è appena soddisfacente la performance di Atene. Sappiamo che quindi è la solita posizione dei falchi della Bundesbank, che non perdono occasione per pungolare il governo greco e per chiedere maggiori sforzi, ma secondo alcuni anche in modo esagerato, e che alla fin fine contribuisce ad allungare l'uscita dalla crisi di questo paese, che come abbiamo detto prima ha accusato una diminuzione del PIL del 4,6% rispetto all'anno prima, il ventesimo trimestre consecutivo di calo. Ma per capire meglio qual è la situazione della Grecia, come si sta muovendo Atene e il suo governo in questa situazione, abbiamo con noi Vittorio Darold, che è giornalista del Sole 24 Ore, più volte inviato in Grecia e che conosce a fondo la situazione di Atene. Caro Vittorio, allora, questa ipotesi di un nuovo salvataggio di Atene, di un nuovo soccorso del governo greco da parte dei governi europei è qualcosa di tangibile e che potrebbe avvenire? Sì, assolutamente Enrico. Il fatto che ci sarà una nuova ristrutturazione del debito dopo quella che è stata fatta più di un anno fa, ricordiamolo, di 100 miliardi di taglio del valore dei bond greci, quindi è il maggiore dell'epoca moderna, quindi un taglio enorme rispetto poi a un paese che ha solo 10 milioni di abitanti e che è circa il 2% di tutto il PIL dell'Eurozona. Ma perché ormai i mercati danno per scontato? Perché il debito è al 170% del PIL e quindi non ci sono possibilità per il paese di poter abbatterlo, e per essere gestibile un debito deve essere almeno al 120%, altrimenti il costo del debito è troppo alto e non consente appunto la riduzione del debito. Quindi ormai i mercati lo danno per scontato, sarà soltanto però quando, dopo le elezioni tedesche, che sono sempre ormai lo spartiacque di qualsiasi iniziativa che non sia puramente di austerity, e a quel punto il debito verrà ridotto, ci sono varie formule, un allungamento della restituzione del debito, una diminuzione dei tassi di interesse, un taglio vero e proprio, un haircut, come si dice in termini tecnici, dell'ammontare. Ma questa volta non sarà a carico dei privati, perché ormai il 90% del debito greco è in mano a governi, istituzioni finanziarie internazionali, cioè Fondo Monetario Internazionale, e banche centrali, fra cui naturalmente la Banca Centrale Europea. Quindi sarà eventualmente una riduzione, un costo che graverà soltanto sulla parte, diciamo così, pubblica. E questo renderebbe più politicamente complicato farlo prima delle elezioni tedesche. Ecco perché tutto viene messo in sordina e se ne parlerà successivamente. Nel frattempo però Atene ha fatto i compiti a casa. Quest'anno ci sono delle novità, la ristrutturazione del debito non impedisce al governo Samaras di aver fatto le riforme strutturali, quelle più dure, più pesanti, e ci sono già i primi frutti. E allora il nostro di debito ci manda un messaggio, una nostra ascoltatrice Clelia, ma in effetti tu dici bisognerebbe portarlo almeno al 120%, quindi il livello italiano. Un altro scrive: Atene dell'Enda Est, si ferma Cesare. Ma questo piano di privatizzazioni, per esempio oggi è stato annunciato addirittura una cessione della quota pubblica della Società Nazionale di Scommesse Sportive, c'è stato questa chiusura addirittura della televisione pubblica greca, insomma. Queste misure anche drastiche stanno avendo un qualche effetto? Guarda, sul fronte delle privatizzazioni, quella di oggi in realtà è una, diciamo così, una privatizzazione che viene formalizzata, ma che era stata già decisa a maggio, e quindi c'è stato poi un problema tecnico perché c'era stato un ricorso al Tribunale Amministrativo che aveva bloccato poi questa privatizzazione. In realtà il fronte delle privatizzazioni, ahimè per la Grecia, non è stato un capitolo di quelli diciamo così positivi. Non si sono riusciti a fare quelle che si era, almeno all'inizio si pensava di avere un obiettivo di 50 miliardi, beh, ne sono riusciti a malapena ad arrivare 3-4, cioè il problema è stato veramente in quel caso un vero flop. Ma quello che è andato abbastanza meglio sono state le riforme strutturali che hanno ridotto i salari dei pubblici dipendenti, hanno ridotto le pensioni, hanno aumentato le entrate fiscali certe, questo è il secondo anno di introduzione dell'IMU in Grecia, che viene appunto, era il secondo anno che si faceva pagare l'imposizione sugli immobili, e questo aumento dei gettiti, la riduzione delle uscite, e soprattutto il fatto che anche i dipendenti pubblici vengono, non solo non c'è una regola aurea che dice uno ogni cinque, quindi cinque in pensione ne viene assunto uno, quindi c'è una riduzione con un turnover molto duro, ma addirittura verranno entro dicembre ridotti altri 12.500 e poi altri 12.500 che verranno nell'anno prossimo, fino quindi a riduzioni effettive del numero dei dipendenti pubblici, quindi si è in qualche modo rotto quel tabù. Un altro ascoltatore ci dice: debito pubblico a 2.075 miliardi con entrate fiscali in aumento. Dopo le elezioni tedesche faremo anche noi come la Grecia. Ecco, dopo le elezioni tedesche tu pensi che ci sia qualche speranza di magari un lieve ammorbidimento tedesco e si riesca a mettere in campo un altro pacchetto di aiuti che possa avere qualche effetto più decisivo sulla situazione greca? Questa situazione greca rimane un buco nero che rischia di nuovo di avvitarsi e di trascinare anche altri paesi? nella crisi? Enrico, io sono ottimista perché penso che la Grecia ha avuto soprattutto un fattore, mi dispiace per gli amici greci, ma di cavia, cioè sono stati in qualche modo i primi ad avere avuto questi problemi di difficoltà, sono i primi a essere usciti dal mercato, non avevano più credito, quindi c'è stato un problema proprio di grossa mancanza di fiducia nei confronti della loro emissione, quindi sono stati loro i primi a subire questo affronto di un paese dell'Eurozona a cui i mercati non fanno più credito. E naturalmente loro adesso hanno due possibilità: uno è la pressione di Obama, che ha appena incontrato il premier greco Samaras e gli ha dato sostegno, che vuol dire che cercherà in tutti i modi di convincere la Germania ad essere meno rigorosa, ma di fare anche politiche di sviluppo. Secondo elemento, è possibile che il nuovo presidente della Commissione europea sarà un tedesco, potrebbe essere quello Schulz che oggi è il presidente del Parlamento europeo, e quindi se la Merkel dovesse essere ancora il cancelliere avrà come voce europea un socialdemocratico tedesco che gli farà da controaltare. Se addirittura poi ci fosse un governo di larga intese che potrebbe essere socialdemocratici e appunto democristiani in Germania, ecco allora che la Merkel dovrebbe fare un cambiamento a U e cercare di aprire i cordoni della borsa, perché avrebbe come controparte dei tedeschi in Europa che potrebbero, o addirittura nel suo stesso governo, che potrebbero costringerla a modificare quell'austerity che oggi è a senso unico. Va bene, grazie Vittorio. Io non credo, devo dire, molto alle inversioni a U della Merkel. Credo che anche dopo le elezioni più o meno la situazione e le posizioni tedesche rimarranno difficili da scalfire. Però, insomma, ci sono vari scenari e tu ce li hai illustrati molto bene. Grazie a Vittorio Darold. E ora passiamo alla chiusura delle borse. Allora, oggi ci sono state delle borse contrastate, come dicevamo, col FTSE All Share che ha chiuso a più 0,53, il FTSE MIB a più 0,44, dopo una giornata piuttosto negativa, soprattutto per la delusione, avevamo detto, del dato giapponese. Però adesso io vorrei un po' approfondire come è andata la situazione a Piazza Affari con Ceo Condina. Pronto, sei in linea? Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, allora, come è andata oggi la giornata? Ma guarda, una seduta abbastanza preferragostana, quindi volumi molto scarsi e come dicevi tu, le borse contrastate, senza una precisa direzione, in una giornata che peraltro è stata anche priva di dati macroeconomici di rilievo sia in Europa sia soprattutto negli Stati Uniti. Diciamo il tema della seduta, perlomeno in Italia, è stato quello dello spread tra BTP e Bund decennale, il differenziale di rendimento appunto tra i due titoli di Stato che è ai minimi degli ultimi due anni, cosa che ha spinto Piazza Affari, spinto per modo di dire, FTSE MIB ha chiuso a più 0,44%, ma comunque meglio delle altre piazze continentali, considerato che Parigi ha chiuso a meno 0,1%, Francoforte ha guadagnato lo 0,2%, anche Londra ha perso circa lo 0,1%, giù lo spread, quindi bene diversi titoli bancari come UBI Banca più 2,5%, Banca Popolare Emilia Romagna più 2,9%, ma bene anche per esempio Fiat, che è stato il miglior titolo del FTSE MIB con più 3%. Sì, mentre Fiat Industrial invece è stata tra le peggiori con meno 1,69. Come si spiega questo? Non ci sono, guarda, diciamo, spiegazioni precise, come ti dicevo, volumi molto bassi, pochi fili conduttori per questa seduta, poche storie, insomma. E invece Finmeccanica è scesa dopo i rialzi di venerdì? Sì, venerdì aveva c'era stato un balzo molto importante, oltre il 6%, dopo che il governo aveva accennato la possibilità di privatizzazione. Come sappiamo, Finmeccanica è tra le principali controllate appunto del tesoro. Oggi, come spesso avviene, qualche presa di beneficio, il titolo era arrivato a perdere anche più dell'1%, alla fine chiude a meno 0,76%, ciò nonostante gli analisti di JP Morgan avessero alzato diciamo il prezzo obiettivo del titolo da 3,1 a 3,45 euro proprio oggi. Mentre è salita a 2A, vero? Sì, diciamo questo anche in scia alle indiscrezioni circolate nel corso degli ultimi giorni riguardo un possibile acconto dividendo. Qui le cose sono abbastanza chiare: i principali azionisti, cioè il Comune di Milano e il Comune di Brescia, hanno bisogno di soldi sia per il bilancio di quest'anno che per quello dell'anno prossimo, e la cosa più semplice è ovviamente quella di staccare o dividendi più elevati o comunque già un dividendo nel 2013, appunto un acconto dividendo che fa gola anche a Piazza Affari, perché il titolo chiude a più 1,8%. Mentre non sorprende che Fonsai sia stata tra le peggiori, visto il maxi sequestro. Eh sì, sicuramente sono cose che non fanno bene al titolo, anche perché parte dei beni del sequestro appunto legato alla famiglia Ligresti sono afferenti a Fondi Area SAI. Contrariamente ai principali titoli finanziari, che come dicevamo prima sono stati favoriti dal calo dei rendimenti sui titoli di Stato italiani, Fonsai chiude in rosso, meno 0,6%. Ebbene, anche in pregiro per la Commissione. Sì, pregiro fuori dal listino principale, è stato un titolo molto gettonato oggi, alla fine ha chiuso a più 2,5% grazie alla vittoria di una nuova commessa in Libia, costruire una nuova autostrada sulla costiera libica, un'opera da 1.700 chilometri che vale come commessa per Impregilo 963 milioni di euro. Bene, grazie mille a CEO Condina, e noi ora mandiamo in onda le notizie per chi viaggia. Buonasera, sono Enrico Brivio, sono le 17.49, siamo a Focus Economia e ora ho qui con me un altro ospite per affrontare un altro tema molto bruciante, scottante, ovvero quello delle pensioni pubbliche e di quanto queste pesino sui conti dell'INPS e quindi un po' sui conti e sulle pensioni di tutti noi. Qui con me Fabio Pavesi, giornalista sulle 24 ore. Buonasera Fabio. Buonasera a te e agli ascoltatori. E quindi prendiamo le mosse da un articolo che è uscito sul sito Sole 24 Ore, che proprio fa un po' il conto di come pensioni pubbliche e quelle dei dirigenti d'azienda affossino i conti dell'INPS. Quindi ci sono delle prospettive non molto rose, giusto Fabio? Beh sì, il problema è che fino al 2015, l'allarme lo lanciò qualche mese fa il presidente dell'INPS Mastrapasqua, l'INPS rischia, nel senso che la confluenza dell'ex INPDAP, cioè le pensioni pubbliche dentro all'INPS, ha provocato il primo rosso nella storia dell'istituto, cioè nel 2012 l'INPS ha perso circa 9 miliardi. Il problema è che c'è già il bilancio preventivo del 2013, quest'anno, che parla di un'altra perdita di 9,2 miliardi, quindi 18 miliardi in due anni, e la stessa INPS dice: se va avanti così noi rischiamo di vedere azzerato il capitale dell'INPS entro il 2015. Tenete conto che il patrimonio dell'INPS era di 40 miliardi fino a pochi anni fa, è sceso già a 15 e probabilmente scenderà a zero se continuerà a chiudere in rosso l'istituto. Ma perché queste perdite? Beh, noi abbiamo provato a vedere dentro l'INPS, perché l'INPS è fatto da gestioni acquisite nel tempo, e abbiamo provato a prendere quelle più critiche. Sicuramente l'INPDA, cioè le pensioni pubbliche, come dire, sono il vero buco strutturale, perché sono in realtà in perdita da molti anni. Perché questa cosa? Perché essenzialmente per due fenomeni tu hai avuto una contrazione del pubblico impiego, e quindi ovviamente meno gente versa contributi e più prestazioni pensionistiche da erogare. In più le pensioni pubbliche sono più alte di quelle dei dipendenti privati, circa 20.000 euro pro capite contro un 12.000 delle pensioni dipendenti privati, quindi sono abbastanza onerose, e quindi si è creato da subito uno sbilancio tra entrate ed uscite, cioè l'INPDAP in realtà è in perdita da oltre un decennio, con perdite anche consistenti, nel senso che abbiamo calcolato che dal 2005 al 2008 il saldo è stato di 42 miliardi di buco. Ovviamente interviene lo Stato, perché una parte dei contributi lo paga lo Stato datore di lavoro. Il problema è che lo Stato per anni non ha versato i contributi. Ma una cosa che molti si chiedono è come si può uscire da questa situazione, perché anche quando sono venuti fuori adesso in questi giorni i dati di certe pensioni d'oro che facevano accapponare la pelle, rimane sempre il problema dei diritti acquisiti, cioè queste persone che comunque hanno acquisito i diritti a percepire queste pensioni sono in qualche modo tutelate. Ecco, c'è qualche modo secondo te di scalfire questa Noi abbiamo situazione? Appunto usato anche l'altro ente in grossa difficoltà, che è quello degli ex dirigenti d'azienda, quindi presumo dove si trovano le pensioni d'oro. L'ente era stato privatizzato, è stato poi ripubblicizzato nell'INPS perché rischiava il fallimento. L'ultimo bilancio vede una perdita di oltre 3 miliardi e 7, cioè i contributi versati sono circa 2 miliardi, le prestazioni pensionistiche arrivano quasi a 6. Ovvio che se viaggi su questo trend tu continui a chiudere in perdita. Ma perché accade questo? Questo è l'effetto perverso e devastante del sistema retributivo, cioè dal 95 riforma Amato e Dini si è tentato di mettere una toppa, ma una toppa vera non si è mai stata messa, per cui tu hai le pensioni calcolate sugli ultimi anni della vita lavorativa, quindi su stipendi medio-alti, e non corrispondono mai ai contributi realmente versati. In sostanza tu dici dentro all'INPS ci sono delle bombe a orologeria. Sì, dentro all'INPS ci sono, tra l'altro la Corte dei Conti dice da anni attenzione a mettere sotto stretto controllo le gestioni in disavanzo. Faccio solo qualche numero, ma perché è indicativo. Il fondo lavoratori dipendenti privati ha chiuso in positivo per solo 600 milioni, ma in realtà la sua chiusura era di 8 miliardi. Questi 8 miliardi sono stati mangiati letteralmente dai disavanzi, la gestione del fondo trasporti, cioè gli ex ferrovieri, che è in perdita per 1 miliardo, gli elettrici, cioè ex Enel, in perdita per 2 miliardi, i telefonici, ex SIP e Telecom, in perdita per 1 miliardo e 2, l'Inter, ex dirigenti azienda, per 3 miliardi e 7. Cioè, tutte queste gestioni sono perennemente in rosso, e l'unica gestione in attivo, e non è un paradosso, è quella dei lavoratori parasubordinati, cioè i giovani che versano e di cui nessuno di loro è andato in pensione. Un ascoltatore ci manda un messaggio, nell'INPDAP lo Stato è il più grande evasore della storia. Sì, ha ragione, perché per anni lo Stato non ha versato i contributi e sanava a fine anno con un'anticipazione di tesoreria, però tenete conto che alla fine questo conto lo paga comunque lo Stato, perché i trasferimenti dello Stato all'INPS valgono 90 miliardi di euro l'anno, e il documento del governo dice che aumenteranno di 20 miliardi fino al 2015, cioè il trasferimento della fiscalità generale verso l'INPS varrà due IMU nei prossimi tre anni, cioè lo Stato con la fiscalità generale deve far fronte ai buchi degli enti di previdenza dissestati, questa è la realtà vera. E poi vedo un altro che ci dice basta con il terrore a toccare i diritti acquisiti, basta con la truffa generazionale. Beh, non può che aver ragione, è vero, il diritto acquisito è proprio un diritto acquisito, però alcuni sono scandalosi, cioè quando tu hai allora le pensioni che superano i 90.000 euro censimento INPS sono 33.000 su 20 milioni di pensioni e da sole valgono 3 miliardi e 3, valgono quanto le 800.000 pensioni degli invalidi civili. Questa gente può dire ma io ho versato soldi per avere quella pensione, il problema è che questa è una mezza verità, perché in realtà se chi è andato in pensione con il vecchio retributivo, con il misto, avrà prestazioni pensionistiche molto più alte dei contributi che realmente versate, quindi un sacrificio anche simbolico sarebbe forse opportuno. Certo, certo, vedo persone che dicono ci potrebbero esiliare i golden pensionati, questo mi sembra un po' eccessivo. Anche l'EMPALS aveva un grande attivo, dice un altro. Sì, è vero, l'EMPALS in realtà, quello dei lavoratori dello spettacolo, è inattivo, ma perché i contributi versati dei calciatori sono consistenti e non sono ancora andati tutti in pensione. Va bene, io ti ringrazio Fabio, hai dato un quadro che può avere un po' inquietato qualcuno che se ne sta tranquillo sotto l'ombrellone, però questi sono i conti dell'INPS, questa è la situazione, quindi così stanno le cose e noi le abbiamo dette. Bene, io a questo punto vi ringrazio, ci sentiamo domani, sempre con Focus Economia. Ringrazio in redazione a Mauro Del Corno e in regia a Roberto Scaltritti. A domani. Radio 24. La passione si sente.